Abbiamo un ospite. Solo per Music for My Mother dei Parliament Funkadelic, riadattata. Abbiamo il nonno funk. Fa fatica, ci vorrà un attimo. Fategli prendere fiato. Non ci crederete, ma non ero d'accordo con questa roba e mi sono sconvolto. E infatti non ci crede nessuno. Scaletta. Questa non è male. Però non era quella. Oh ah, hey. Oh ah. Oh ah, hey. Oh ah. Parti giusto un po' di tempo fa sull'alzaia del Naviglio a Trezzano, giù di là, quando ho tratto attraverso l'aria ho sentito del funk, mi sono fermato un attimo, teso l'orecchio e questo è quello che ho sentito. Sì. Ho teso orecchio, i miei piedi erano stanchi comunque, e quello che sentivo non era niente male, del rozzo funk. Quindi ho cercato in tasca la mia armonica e ho provato ad abbozzare un motivo, ma non sono riuscito a stargli dietro, sono solo riuscito a cantarci sopra qualcosa che suonava veramente funk. Sì. Whoa, hey!